terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Nel corso del suo viaggio verso Pietroburgo, Pierre incontra uno dei più noti massoni di Russia, che lo indirizza a Pietroburgo al conte Villarsky. Questi lo inizia alla loggia. Dopodiché Pierre lascia la città per ritirarsi nelle sue proprietà del sud. Intanto, ad una serata da Anna Pavlovna, la moglie Hélène fa conoscenza ed entra poi in una certa intimità col bel Boris Drubetskoy, che anni prima, ricordate, avevamo visto innamorato di Natasha. E la lettura scorsa si era chiusa a Lisia Gori sul principe Andrei, che, mentre si occupa del figlioletto febbricitante, riceve alcune lettere del padre. La prima missiva lo informa di una vittoria riportata contro Bonaparte ad Eilan, mentre un'altra lettera lo informa più dettagliatamente del corso generale della guerra. Il principe Andrei sul principio aveva letto macchinalmente, ma poi quello che leggeva aveva cominciato, suo malgrado, a interessarlo sempre più. Chiuse gli occhi, si stropicciò la fronte con la mano come per scacciare via qualunque interessamento per ciò che aveva letto e prestò orecchio a quel che accadeva nella camera del bambino. A un tratto gli parve di udire dietro la porta uno strano rumore. Fu preso da paura. Temette che fosse accaduto qualcosa al bambino mentre egli leggeva la lettera. In punta di piedi si avvicinò alla porta della camera e l'aprì. Nel momento in cui entrava, vide che la bambinaia, con un viso spaventato, gli nascondeva qualche cosa e che la principessina Maria non era più accanto al letto. «Caro», sentì dietro di sé la voce sommessa che gli parve disperata della principessina Maria. Come spesso accade dopo una lunga insonnia e una lunga agitazione, fu preso da uno spavento senza motivo. Gli venne in mente che il bambino fosse morto. Tutto quello che vedeva e sentiva gli pareva una conferma del suo spavento. «Tutto è finito», pensò. E un sudore freddo gli spuntò sulla fronte. Si avvicinò smarrito al lettino, sicuro che l'avrebbe trovato vuoto, che la bambinaia aveva nascosto il bambino morto. Aprì le tende del lettino e per un pezzo i suoi occhi, che erravano spaventati, non poterono trovare il bambino. Finalmente lo vide. Il bambino, rosso in viso, tutto disteso, giaceva di traverso nel lettino, con la testa più giù del guanciale, e poppava in sogno, muovendo le labbra e respirava con un ritmo eguale. Il principe Andrei, vedendo il bambino, si rallegrò, come se già lo avesse perduto. Si chinò e, come gli aveva insegnato la sorella, tastò con le labbra per sentire se avesse la febbre. La tenera fronte era umida, allora gli toccò la testa con la mano. Anche i capelli erano bagnati, tanto sudava il bambino. Non soltanto non era morto, ma era ormai evidente che la crisi era passata e che egli era in via di guarigione. Gli venne la voglia di afferrare, di stringere, di premersi al petto quel piccolo essere inerme. Ma non osò di farlo. Stava su di lui, chinato, a guardargli il capo, le manine e i piedini che si delineavano sotto la coperta. Sentì un fruscio accanto a sé e un'ombra gli apparve sotto la tenda del lettino. Non si voltò a guardare e, fissando in viso il bambino, ascoltava sempre il suo respiro. L'ombra scura era la principessina Maria, che a passi silenziosi si era avvicinata al lettino, aveva sollevato la cortina e l'aveva lasciata ricadere dietro a sé. Il principe Andrei, senza guardarla, la riconobbe. E le stese la mano. Ella gliela strinse. E noi lasciamo Andrei e la sorella al capezzale del piccolo Nikolushka e raggiungiamo Pierre, che, arrivato a Kiev, informa i suoi amministratori che il suo volere è quello di liberare i contadini, di alleggerire il loro carico di lavoro, di avere riguardo per le donne con i bambini e di addolcire i castighi. Ma intanto Pierre purtroppo deve occuparsi anche dei suoi affari e la cosa non gli piace assolutamente. Nella primavera del 1807 egli decide di tornare a Pietroburgo, ma prima di partire compie un giro delle sue proprietà, dove vede con piacere la realizzazione di almeno una parte dei suoi desideri. Sono state costruite scuole, ospedali, asili e dappertutto la gente si mostra felice e riconoscente. Messo di buon umore da questo, Pierre decide di passare a visitare l'amico Andrei Balkonsky, che non vede da 2 anni. Giunto a Boguciarovo e incontrato Andrei, Pierre resta colpito dal cambiamento avvenuto nel principe. L'accoglienza di questi è calda e affettuosa, come sempre, ma lo sguardo di Andrei è spento e come senza allegria. I due amici si raccontano le rispettive novità e, inevitabilmente, Pierre cerca di convincere l'amico dell'importanza della massoneria. Sì, disse il principe Andrei, ma non è questo che può persuadermi, anima mia, bensì la vita e la morte. Ecco quello che mi persuade. Quello che mi persuade è il vedere un essere caro, legato a te, di fronte al quale sei stato colpevole e verso il quale speravi di giustificarti. E al principe Andrei tremò la voce ed egli si voltò. E a un tratto questo essere soffre, è straziato e cessa di vivere. Perché? Non è possibile che non ci sia una risposta, e io credo che ci sia. Ecco quello che persuade, ecco quello che mi ha persuaso, disse il principe Andrei. Ma sì, disse Pierre, non dico forse anch'io la stessa cosa? No, io dico soltanto che non i ragionamenti ti persuadono della necessità di una vita futura, ma il fatto di andare nella vita con la mano nella mano di una creatura, e a un tratto questa creatura sparisce, là nel nulla, e tu ti fermi davanti a quell'abisso e guardi, e io ho guardato. E allora va benissimo. Voi sapete che c'è un là e che c'è qualcuno. Là c'è la vita futura e quel qualcuno è Dio. Il principe Andrei non rispose. Se c'è Dio e se c'è una vita futura, allora c'è la verità, c'è la virtù e la suprema felicità dell'uomo consiste nell'aspirare a raggiungerle. Bisogna vivere, bisogna amare, bisogna credere, diceva Pierre, che noi viviamo non soltanto oggi su questa zolla di terra, ma siamo vissuti e vivremo eternamente là. Nel tutto, e indicò il cielo. Il principe Andrei stava in piedi, appoggiato al parapetto della chiatta, e ascoltando Pierre, dal quale non toglieva gli occhi, guardava il riflesso rosso del sole sulle azzurrognole acque straripate. Pierre tacque. C'era un silenzio assoluto. La chiatta era attraccata da un pezzo, e non si udiva più che il debole rumore dell'onda che batteva contro il fondo. Al principe Andrei pareva che quello sciabordio dell'acqua dicesse, accompagnando le parole di Pierre, «È la verità, credilo!» Sospirò, e con uno sguardo radioso, fanciullesco e tenero, guardò il viso di Pierre, tutto rosso, infervorato, ma sempre timido, davanti all'amico di cui sentiva la superiorità. «Già, se fosse così», disse. «Ma andiamo a sederci», aggiunse, e scendendo dalla chiatta guardò il cielo, che gli aveva mostrato Pierre, e per la prima volta, dopo Austerlitz, vide quell'alto, eterno cielo che aveva veduto quando giaceva sul campo di Austerlitz, e qualcosa che dormiva da un pezzo, quel che c'era di migliore in lui, a un tratto gli si svegliò lietamente e giovanilmente nell'anima. Questo sentimento svanì appena il principe Andrei entrò di nuovo nelle condizioni solite della sua vita, ma egli sapeva che questo sentimento che non sapeva svolgere viveva in lui. L'incontro con Pierre segnò per il principe Andrei un'epoca, dalla quale cominciò, benché esternamente fosse sempre quella di prima, la sua nuova esistenza interiore. E la trasformazione del principe Andrei, da quell'annoiato e stanco figurino quasi settecentesco che c'era apparso all'inizio, all'uomo che poi vedremo in seguito, riuscirà a guardare in faccia la morte, è in pieno svolgimento. Lasciamo adesso il principe Andrei e torniamo alle vicende di Nikolaj Rostov. Tornato questa volta dalla sua licenza, Rostov sentì e capì per la prima volta sino a che punto fossero forti i suoi legami con Denisov e con tutto il reggimento. Mentre Rostov si avvicinava al reggimento, provava un sentimento simile a quello che aveva provato avvicinandosi alla sua casa. Quando vide il primo ussero del suo reggimento con l'uniforme sbottonata e l'arruffato Denisov, che era in letto e dormiva, corse fuori dalla baracca e lo abbracciò e gli ufficiali si fecero attorno al sopraggiunto, Rostov provò lo stesso sentimento di quando la madre, il padre e le sorelle lo avevano abbracciato e le lacrime di gioia che lo serrarono alla gola gli impedirono di parlare. Anche il reggimento era una casa, e una casa immutabilmente cara e preziosa come la casa dei genitori. Rientrato di nuovo in queste condizioni precise della vita di reggimento, Rostov provò una gioia e una calma simili a quelle che prova un uomo stanco coricandosi per riposare. La vita di reggimento era tanto più consolante per Rostov in quella campagna in quanto, dopo la perdita al gioco con Dolokhov, fatto che egli, malgrado le esortazioni dei suoi parenti, non aveva potuto perdonare a se stesso, aveva deciso di non più fare il suo servizio come lo faceva prima, ma, per cancellare la sua colpa, di farlo bene e di essere un ottimo compagno e un ottimo ufficiale, vale a dire un uomo eccellente, cosa che, nel mondo, sembrava così difficile, ma così fattibile al reggimento. Dopo la sua perdita al gioco, Rostov aveva deciso di pagare in 5 anni questo debito ai suoi genitori. Gli mandavano 10.000 rubli all'anno, ora aveva deciso di prenderne soltanto 2 e di lasciare il resto ai genitori in pagamento del debito. E intanto, nel mese di aprile, ha luogo la battaglia di Friedland, in seguito alla quale viene proclamato l'armistizio e in cui anche Denisov viene ferito. Il 13 giugno l'imperatore russo e quello francese si incontrano dunque a Tilsit. Noi ritroviamo Nikolaj Rostov ad un banchetto offerto ai soldati. C'è una discussione in corso a proposito dell'armistizio che non lascia tutti soddisfatti, mentre Nikolaj continua a sostenere a spada tratta le scelte dello zar Alessandro. Questa scena chiude la seconda parte del secondo libro. Nikolaj mangiava in silenzio e soprattutto beveva. Beve lui solo 2 bottiglie di vino. L'interno lavorio che era cominciato in lui non trovava una conclusione e seguitava a tormentarlo. Egli temeva di abbandonarsi ai suoi pensieri e non se ne poteva staccare. A un tratto, alle parole di uno degli ufficiali, il quale diceva che era irritante guardare quei francesi, Rostov cominciò a gridare con una violenza che nulla giustificava e che perciò sorprese molti ufficiali. «E come potete giudicare ciò che sarebbe stato meglio?» urlò con un viso inondatosi a un tratto di sangue. «Come potete giudicare le azioni dell'imperatore? Che diritto abbiamo noi di discutere? Noi non possiamo capire né gli scopi né gli atti dell'imperatore. Noi non siamo dei funzionari diplomatici, siamo dei soldati e nient'altro», continuò. «Ci ordinano di morire e si muore. E se ci puniscono vuol dire che siamo colpevoli. Non sta a noi giudicare». Se piace al nostro augusto imperatore riconoscere Bonaparte imperatore e concludere un'alleanza con lui, vuol dire che così va fatto. Se no, se ci mettessimo a giudicare e a discutere di tutto, allora non resterebbe più nulla di sacro. Diremmo allora che non c'è Dio, che non c'è nulla. Urlava Nikolaj, picchiando sulla tavola, molto male a proposito, a giudizio dei suoi compagni, ma molto logicamente, secondo il corso dei suoi pensieri. «A noi tocca compiere il nostro dovere, farci fare a pezzi e non pensare. Ecco tutto!» concluse. «E bere!» disse uno degli ufficiali, che non voleva litigare. «Sì, e bere!» confermò Nikolaj. «Ehi tu, un'altra bottiglia!» Il principe Andrei aveva passato 2 anni in campagna senza muoversi. Tutte le imprese che Pierre aveva divisato di compiere nei suoi possessi e che, passando continuamente da una faccenda all'altra, non aveva in nessun modo concretate, erano state invece compiute dal principe Andrei, senza parlarne con nessuno e senza sforzo apparente. Egli aveva al più alto grado quella tenacia pratica che mancava a Pierre e che senza oscillazioni e senza sforzo da parte sua dava impulso alle cose. Uno dei suoi possedimenti, di 300 anime, era stato assegnato ad agricoltori liberi. Fu questo uno dei primi esempi in Russia. In altri, il lavoro obbligatorio fu sostituito con un canone. A Boguciarovo era stata fatta venire a sue spese una brava levatrice per assistere le partorienti e un prete stipendiato insegnava a leggere e a scrivere ai figli dei contadini e dei domestici. Oltre alla cura dei suoi beni, oltre all'occupazione generale costituita dalla lettura dei più svariati libri, il principe Andrei era in quel tempo occupato a fare l'analisi critica delle nostre 2 ultime sventurate campagne e a redigere un progetto di riforma dei nostri codici e regolamenti militari. Nella primavera del 1809 il principe Andrei si recò nel circondario di Ryazan, nella tenuta di suo figlio, del quale era tutore. Egli se ne andava in carrozza, scaldato dal sole primaverile, e guardava la prima erba, le prime foglie delle betulle e i primi ammassi di bianche nuvole primaverili che correvano nell'azzurro chiaro del cielo. Non pensava a nulla di preciso, ma guardava dalle parti, allegro e senza preoccupazioni. Nel bosco faceva quasi caldo e non c'era un soffio di vento. Le betulle, tutte coperte di foglie verdi e vischiose, erano immobili e sotto alle foglie dell'anno passato spuntavano, sollevandole, l'erba nuova verdeggiante e dei fiori violacei. Sul margine della strada c'era una quercia, un'immensa quercia che aveva due braccia di circonferenza, con i rami spezzati certo da molto tempo e la corteccia screpolata, coperta da antiche ferite. Con le sue enormi braccia e le sue dita tozze, divaricate senza simmetria, essa si ergeva come un vecchio mostro, irato e sprezzante, in mezzo alle sorridenti betulle. La primavera, l'amore e la felicità, pareva che dicesse quella quercia. E come mai non vi annoia questo stupido e assurdo inganno che è sempre il medesimo? È sempre la stessa cosa ed è sempre un inganno. Non c'è né primavera, né sole, né felicità. Guardate questi abeti morti e schiacciati, sempre solitari. Guardate come anch'io ho disteso le mie braccia spezzate, scorticate, dovunque mi siano cresciute, sul dorso come sui fianchi. E così me ne rimango. E non credo alle vostre speranze e ai vostri inganni. Il principe Andrei si voltò più volte verso quella quercia, mentre attraversava la foresta, come se ne aspettasse qualcosa. Anche ai piedi della quercia c'erano fiori ed erba, ma essa se ne stava lì in mezzo corrucciata, sempre ugualmente immobile, mostruosa e proterva. Sì, ha ragione, mille volte ragione quella quercia, pensava il principe Andrei. Lasciamo che gli altri, i giovani, cedano di nuovo a questo inganno, ma noi conosciamo la vita, la nostra vita è finita. E tutta una nuova catena di pensieri sconfortanti, ma malinconicamente dolci, sorse nell'anima del principe Andrei a proposito della quercia. Per tutto il tempo del tragitto egli parve ripensare tutta la sua vita e giunse alla medesima tranquillante e disperata conclusione di prima, che egli non doveva più cominciare nulla, ma terminare la sua vita senza fare del male, senza agitarsi e senza desiderare nulla. Per questioni che riguardavano la tutela della tenuta di Riazan, il principe Andrei doveva vedere il maresciallo della nobiltà del circondario. Il maresciallo era il conte Ilya Andreevich Rostov e alla metà di maggio il principe Andrei andò da lui. Di cattivo umore e preoccupato di ciò che doveva chiedere al maresciallo intorno ai suoi affari, avanzava in vettura per il viale del giardino verso la casa dei Rostov ad Otradnoje. A destra, dietro agli alberi, udì allegre voci femminili e scorse un gruppo di fanciulle che correva, tagliando la strada alla carrozza. Più vicina di tutte correva, davanti alla carrozza, una fanciulla molto esile, stranamente esile, con gli occhi neri e i capelli neri, con un vestito di tela gialla e col capo coperto da un fazzoletto bianco, dal quale sfuggivano ciocche di capelli arruffati. La fanciulla gridò qualche cosa, ma, scorgendo un estraneo, se ne scappò via ridendo, senza guardarlo. Ad un tratto il principe Andrei provò un non so che di penoso. La giornata era così bella, il sole così chiaro, intorno tutto era così allegro, e quella sottile e graziosa fanciulla non sapeva e non voleva sapere della sua esistenza, ed era contenta e felice della propria vita, probabilmente stupida, ma allegra e spensierata. Di che cosa è così contenta? A che pensa? Sicuramente non al codice militare, né a sistemare il canone dei contadini di Riazan. A che pensa? E di che è felice? Si domandava con involontaria curiosità il principe Andrei. Il conte Ilya Andreevich fu lieto dell'arrivo del principe Andrei, come lo era di tutti i nuovi ospiti, e quasi per forza lo trattenne a passare la notte. Nel corso di quella noiosa giornata, durante la quale i padroni di casa anziani si occuparono del principe Andrei insieme coi più ragguardevoli degli ospiti, che per l'avvicinarsi delle feste empivano la casa del vecchio conte, Balkonski guardò più volte Natascia, che rideva e si divertiva in mezzo alla parte più giovane della compagnia, e sempre si domandava: ma a che pensa? Di che è così contenta? La sera, rimasto solo nella sua nuova camera, per lungo tempo non poté addormentarsi. Lesse un poco, poi spense la candela, poi l'accese di nuovo. Nella camera, con le imposte chiuse, faceva caldo. Il principe Andrei si alzò e si avvicinò alla finestra per aprirla. Appena ebbe dischiuso le imposte, la luce della luna, come se da un pezzo avesse fatto la posta presso la finestra, irruppe nella stanza. Egli spalancò la finestra. La notte era fresca e immobilmente chiara. Il principe Andrei poggiò il gomito sul davanzale della finestra e i suoi occhi si fermarono su quel cielo. La camera del principe Andrei era al piano di mezzo. Anche nella stanza sopra alla sua c'era gente e non dormiva. Egli udì in alto un chiacchierio femminile. «Ancora una volta sola», disse lassù una voce di donna che il principe Andrei riconobbe subito. «Quando andrai a dormire?» rispose un'altra voce. «Non ci vado, non posso dormire, che devo fare? Su, un'ultima volta!» E le due voci femminili cominciarono a cantare una frase musicale che formava la fine di qualche pezzo. «Ah, com'è bello! Su, su, ora a dormire e basta!» «Va tu a dormire, io non posso!» rispose la prima voce, avvicinandosi alla finestra. La fanciulla si era evidentemente affacciata alla finestra perché si sentiva il fruscio del suo vestito e perfino il suo respiro. Tutto tacque, come pietrificato, come la luna con la sua luce e le ombre. Anche il principe Andrei non osava muoversi per non rivelare la sua involontaria presenza. «Sonia! Sonia!» si udì di nuovo la prima voce. «Ma come si può mai dormire? Ma guarda che bellezza! Ah, che bellezza! Svegliati, Sonia!» disse la fanciulla, quasi con le lacrime nella voce. «Una notte così bella non c'è stata mai, mai!» Sonia rispose qualcosa di malavoglia. «Ma no! Guarda che luna! Ah, che bellezza! Vieni qua! Anima mia, colombella, vieni qua! Vedi, io vorrei sedermi sui calcagni, così, afferrarmi sotto le ginocchia, ben stretto, il più stretto possibile. Bisogna fare uno sforzo e volar via. Ecco, così. Basta, cascherai!» Si sentì una lotta e la voce malcontenta di Sonia. «Ma son quasi le due! Ah, tu sei buona soltanto a guastarmi tutto! Su, su, vattene, vattene!» Tutto tacque di nuovo, ma il principe Andrei sapeva che ella era ancora là. E di tanto in tanto udiva un piccolo rumore, un sospiro. «Ah, Dio mio, che cos'è mai?» disse ella ad un tratto. «E andiamo pure a dormire». E chiuse la finestra, sbattendola. «Che le importa la mia esistenza?» pensò il principe Andrei, mentre stava ad ascoltare le sue parole, aspettando e temendo, senza sapere perché, che ella dicesse qualcosa di lui. «Sempre lei, pare fatto apposta», pensava. Nella sua anima sorse ad un tratto un così inatteso miscuglio di pensieri e di speranze giovanili, contrastanti con tutta la sua vita, che egli, non sentendosi la forza di chiarire a se stesso il proprio stato, subito si addormentò. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.